non ti aspetti. Sarà come prenderti sopra un cavallo e partire al galoppo, come prenderti in braccio ed andar via. Fino ad un albero sopra uno scoglio, fino ad un'onda coperta di foglie. Desiderio, proprio come se avessi addosso quel vestito a fiori che sognavi sempre per te. E sai,